24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sono qui per rendere conto di una vicenda della quale non sono stato informato e della quale il governo non è stato informato. E così aggiornare il listone, cari ascoltatori, c'è anche l'espulsione a mia insaputa. Così in Italia succede anche questo, listone da aggiornare nella Repubblica degli insaputismi e degli insaputelli. E così Alfano non sapeva. Il capo di gabinetto Procaccini oggi fa una serie di interviste in cui dice: ma io avevo informato il ministro, non sapeva. Procaccini stesso ha detto: mi hanno detto che volevano cercare un latitante, ma non sapevo che volevano prendere poi una donna, alla quale ora chiederei scusa. Il capo della polizia Pansa ha detto: i vertici della polizia non è che hanno proprio seguito, non sapevano, nessuno sapeva. Neanch'io so, cari ascoltatori, ve lo dico, non è che so neanch'io. Comunque, buongiorno, sono Alessandro Milan, eccoci qua, questo è 24 mattino, c'è il nostro Alessandro Longoni in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia. Sì, non ce l'ho contraffina, però Milan, sei proprio un coglione. Ecco. Ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Non so neanch'io, non so neanche questa cosa. Voglio salutare subito la nostra Paola Saluzzi. Buongiorno, buongiorno Paola. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Tu sai buongiorno, qualcosa? Buongiorno. Sai qualcosa? Cosa sai? Sai qualcosa? So che tu sei molto bravo. Che paraculata questa. No. Vabbè. Proprio no. Saluto. Stamattina invece ci sta proprio bene. Ci sta bene. Saluto il nostro direttore, il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno direttore. Buongiorno. Tu, buongiorno direttore. Tu voi sapete che vi siete svegliati. Questo lo sapete oggi stamattina. A mia insaputa. Quello sì, effettivamente. A quest'ora, soprattutto a vostra insaputa. Allora, apriamo subito il nostro Parlamento, eh? Eccoci qua. Può aprire la serranda? Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole c'è sempre. Offrire il caffè. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Tranquilla, è ancora una settimana poi andiamo in ferie, quindi socchiudiamo il bar, chissà se Nicole Minetti sarà qua a offrirci il caffè a settembre. Guardate, non è che voglio partire dal Kazakistan, poi parliamo del Kazakistan, poi parliamo tra poco. Cioè. Prima però voglio partire da una cosa un po' più. Insomma, io qua abbiamo Luca Dini, abbiamo una del 2% delle donne parlanti che si mostrano in TV quotidianamente, Paola Saluzzi. Quindi possiamo. Ho capito dove vuoi andare. Partiamo da lì. Prima di Paola Saluzzi voglio sapere dal direttore Luca Dini cosa ne pensi di questa uscita della Boldrini, che al di là di Miss Italia, che secondo me, ma ha detto le donne in TV sono nude, svestite, il 2% parlano, le altre sono mute. Che ne pensi? Ma non so, trovo diciamo un ragionamento giusto e un bersaglio sbagliato. L'ho trovato un punto di vista un po' poco informato, se posso dire. Cioè, mi chiedo che TV guardi Boldrini, perché francamente insomma ci sono le indecenze della TV, secondo me sono più le inciviltà, le grida di certi talk show, certe manifestazioni, insomma non mi pare veramente che il problema della TV oggi nel 2013 siano le donne nude e mute. Ci sono, cioè c'è questa immagine della donna utilizzata, uso questo verbo in TV per dare un'immagine, non so, Paola Saluzzi, c'è ancora un po' questa immagine, mettiamo una bella donna, per dirla in maniera edulcorata, no? Perché così attrae. Però sì, c'è e ci sarà sempre, credo. Penso che oggi, accanto a questa esigenza, ce ne siano tantissime altre. Credo che ci siano tantissime altre esigenze oltre a questa, oltre alla ma la possibilità in realtà di offrire a tutte una chance, non so come dire, sì. È bello anche sentirsi più belle e più esposte in un certo periodo, più belle e più parlanti in un certo altro. Io credo che ci siano delle problematiche con grandissimo rispetto, lo dico, talmente gravi e talmente forti, sicuramente partono anche dall'uso che si possa fare del il famoso corpo delle donne, no? Del quale tanto abbiamo parlato ed è giusto parlare. Mm-hmm. Credo che ci siano altre priorità, ecco. Altre priorità, ma che ne pensi? Cioè, ha fatto un'uscita un po' esagerata, no, un po' sbagliata? Bisogna inserirla esattamente, adesso dico una cosa di quelle per cui davvero sembra che io faccia lo slalom, nel contesto in cui si trovava tutto il discorso, però non sto dicendo una cosa peregrina, bisogna capire il contesto del discorso. Sì, perché parlava anche del l'utilizzo del corpo delle donne nella pubblicità, per esempio, no? Ecco, per cercare... allora ampliamolo molto e allora possiamo sicuramente dialogare su questo. Io spero vivamente che si creino, si stanno facendo, per carità, e si sta facendo da tanto tempo, ecco, delle commissioni permanenti sulla disperazione delle donne, sulle donne che rimangono con un uomo anche se le picchia perché dicono però in fondo mi vuole bene, sulle donne che denunciano 10 volte e all'11ª muoiono, ecco, insomma, io su questo sarei... Però questo è il punto di partenza che ha avuto anche il presidente Boldrini ed è assolutamente meritorio, ma poi forse certo. Ha fatto un passo in più, cioè è arrivata a dire delle cose sulla TV un po'... A volte si fanno i passi in più, Alessandro... ma è chiaro, forse è andata un po' oltre. Si arriva a dire una cosa che c'entra, ma della quale poi si parlerà... non sapendo forse che si parlerà poi prevalentemente solo di quelli. Ah, è chiaro. No, così ha fatto, lo so, direttore, ha fatto così. È partita da un principio giusto, una discussione giusta, poi è venuta la questione Miss Italia, la pubblicità per vendere uno yogurt, c'è la donna scosciata, cioè forse poi è andata un po' oltre, no? Cioè, o no? Sì, è andata un po' oltre, soprattutto, ripeto, è un po' fuori tempo massimo, nel senso che quella cosa lì è già cambiata e ci sono altre cose, altri maschilismi che sono secondo me peggiori, per esempio che sono la violenza verbale, che sono le parole sbagliate verso le donne, ci sono cose secondo me molto, molto più sconce che avvengono quotidianamente, sì, rispetto alla donna biotta, uso questo termine, ma anche rispetto posso dire rispetto alla donna nera, per esempio, rispetto ai neri. Ma andiamo con calma, kazaki vostri, allora, cioè andiamo kazaki vostri. Ieri ho fatto questa cosa per non sentirmi escluso da questa vicenda che devo dire evidentemente è seria, per carità, però mi appassiona poco, cioè non riesco a seguire tutto quello che succede. Sono andato a comprarmi una mappa del Kazakistan, così intanto tu, Paola Saluzzi, sai bene dov'è il Kazakistan. Io lo so bene dov'è perché ho fatto per UNICEF un viaggio nel Kirghizistan, che sta appena sotto. Ma è piccolissimo, sì? Immenso, smisurato, come dire, lunare, sì? Kazakistan. Che è immenso. Paola Saluzzi in Kirghizistan, ma vabbè, è straordinaria. Cosa ti ha colpito del Kirghizistan? La povertà? Forte. E poi? Le montagne meravigliose. Mm-hmm. La qualità della gente, siamo al confine con la Cina, siamo attaccati alla Cina, la capacità delle persone, non per questo, perché se fossimo attaccati da un'altra parte sarebbe la stessa cosa, però di saperti accogliere, poi sai, io andavo per una missione umanitaria, quindi quello che trovavo e incontravo sulla mia strada era la volontà di un paese di migliorarsi. Come questo paese dopo la fine della Repubblica Socialista Sovietica sia stato abbandonato a se stesso, e qualche statua di Lenin che ancora rimane. Quella c'è sempre. Però qui sono kazaki vostri, ecco. Allora, oggi Vanity Fair, Luca, intervistate un'altra figlia di questo Ablyazov, il dissidente o l'oppositore del dittatore Nazarbayev, che sta a Ginevra e che dice adesso ho paura anch'io. Tu che cosa hai capito? Intanto abbiamo capito, Luca, che nessuno sapeva. Questo l'abbiamo capito. Nessuno sapeva. Ma ti pare credibile una cosa del genere? No, nessuno è impossibile. E comunque voglio dire, è uno di quei casi in cui se sai è brutto, se non sai è quasi peggio. È certo. non se ne esce. Sì, l'idea è che o non controlli il tuo ministero o lo controlli e hai occultato qualcosa, che non è il massimo, eh. Sì, e devo dire che a me quello che ha colpito, perché poi parliamo molto di questa cosa perché sono la moglie e la figlia di un famoso dissidente, però quello che lei ha raccontato nel memoriale che è stato pubblicato, mi sembra, dal Financial Times, sì, anche il modo in cui è stata trattata e apostrofata, secondo me dovrebbe aprirci gli occhi un pochino su certe cose che noi non sappiamo, di alcune cose che possono succedere ai famosi stranieri che ci danno fastidio e che vengono, diciamo, a rompere le balle, come dice qualcuno, vengono qui a rubarci il lavoro. A volte qualcuno dovrebbe fare, insomma, dei giri, non dico che sia dappertutto così, però a me è capitato di capitare, insomma, in uffici passaporti, uffici stranieri, insomma. Sì. La realtà è, non è come vengono trattati. Comunque, voi intervistate Madina Ablyazova, che è un'altra figlia di questo Ablyazov. Tra l'altro, Paola Saluzzi, oggi Berlusconi rompe il silenzio sul Corriere della Sera, fa un colloquio con Francesco Verderami e dice: vabbè, Alfano non si tocca. Questa è una vicenda in cui la colpa è dei burocrati, ministero, magistrati, chi ha avallato questa cosa, politicamente non c'entra nulla. E alla domanda: ma lei ha incontrato Nazarbayev? Perché c'è questo già in Sardegna, fa: ma no, mi hanno detto che nella villa dove era non poteva atterrare l'elicottero, quindi come avrei potuto? Ecco, questa secondo me è una straordinaria frase che racchiude proprio Berlusconi. Paola Saluzzi, tu cosa hai capito di questa vicenda? Ho capito che me ne occuperò anche oggi. Questo è quello che sto capendo giorno dopo giorno con il nostro pomeriggio. Ho capito che bisogna leggere tra le righe, ho capito che abbiamo rapporti, che vogliono dire lavoro, attenzione, molto importanti, rapporti commerciali molto importanti con questo paese del quale tu correttamente sei andato a comprare cartina, o quantomeno sei andato a vedere dove fosse, insomma, ecco, già questo è un punto a favore, non dire non sapevo dove fosse. E quindi ho capito che bisogna capire sicuramente quanto ha sottolineato il direttore. Bisogna capire tutto, perché un paese deve sapere che cosa accada al proprio interno. Ma qui nessuno sapeva. Situazioni che... Ma ti pare normale che nessuno sapesse qua? No. Posso dirla con due letterine? No. No, assolutamente. Quindi il nostro compito è studiare e capire perché nessuno sapesse. Ecco, sentiamo per esempio D'Alema. Sentiamo D'Alema che cosa dice, perché qui c'è anche tutto, insomma, si tengono un po' come due zoppi, no? Io lo dico sempre che zoppicano, PD e PDL, mi sembra anche questa situazione, per camminare dritti, spalla contro spalla. D'Alema poteva non sapere, Alfano, sentite. Se è stata fatta questa operazione, come si dice, non ho motivo di dubitarne, senza informare il Ministro degli Interni, non solo è grave, è gravissimo, bisogna che i responsabili paghino. Però non è responsabile il Ministro della sua ignoranza, diciamo. Il fatto che questa operazione, mi pare una domanda francamente, diciamo, non sensata, perché il Ministro, se una cosa non gliela dicono, non la sa, non è colpevole del fatto che non la dicono. Luca Dini, l'aiuto di D'Alema, no? È così, se non la sa è il ministro, ma com'è possibile? Che, a parte che questo Procaccini fa interviste oggi su Repubblica, il Fatto dice: ho informato personalmente il ministro. Ho informato e sono offeso, amareggiato per tutto quello che è successo, eccetera. Ma sì, ma anche le modalità, l'aereo che l'aspettava, cioè, ma diciamo, sì, ma come si fa a mobilitare, Paola, come si fa a mobilitare mezzi reparti di polizia del Viminale senza che nessuno sapesse? Ma dai, cioè, è una cosa poco credibile, no? Sì, rimane. Ieri sono state molto molto dure, molto dirette le parole di Maroni. Maroni è stato ministro dell'interno, ha lavorato e ha avuto parole molto molto molto pesanti. Poi è chiaro che di fronte a tutto questo, la tenuta di un governo in un paese dove la tenuta di un governo è molto importante in questa fase, lo ribadiamo, perché il governo non serve alla politica, il governo questa volta serve alle leggi da fare in fretta, alle Expo 2015 da fare in fretta, ai 36 mesi di contratto da fare in fretta a tantissima gente, alla riattivare la pubblica amministrazione che paghi in fretta a quell'azienda a cui non ha dato nulla per anni, Ecco, allora, se vogliamo mettere da questo punto di vista, benissimo, è successo un fattaccio grave, non lo facciamo più, come dicono le mamme. Questo sì, buone sì, ai sì. figli troppo maraghi. Allora, se dobbiamo tenere tutto questo in piedi, per tutti i motivi che abbiamo appena detto, c'è cioè un paese che sta cadendo a pezzi, teniamo tutto quanto la in piedi. La sensazione è un po' quella, cioè che su una cosa del genere non possa avvenire una crisi di governo in questo momento. 24 mattino. Imbecilli, ignoranti, incapaci, con tanti clandestini da espellere e che rompono i coglioni agli italiani, hanno espulso proprio i due che si automantenevano. Quelli della sinistra non hanno idee e se qualcosa fanno la sbagliano. Per 50 anni stanno scaricando i loro fallimenti su Almirante, Gelli e Berlusconi. Belle trovate. Poi Milan, la smettiamo di sfottere il saggio che pensa gratuitamente. Abbiamo un Calderoli che dopo la storia dell'Orango è chiaro che non pensa e lo paghiamo un casino di soldi. Allora non ha ragione quello, almeno pensa, ma pensa gratuitamente. La differenza c'è, eh? Attenzione. Certo che fate un'informazione proprio pessima, eh? Complimenti, per fortuna che sei l'unico. La signora Kang è venuta qui e ha avuto quello che ha avuto, è arrivata dove è arrivata e lei parla di discriminazione. Tantissimi italiani vanno a loro spese in Africa per aiutare gli africani. Lei, che è oculista, perché non torna a casa sua? Qui di lei non c'è proprio bisogno. Oh, buongiorno Milan. Tanti sono incazzati e vorrebbero andare col polcone, col fucile. Io c'ho l'uno e gli altri. Ma chi organizza qualcosa di serio? Non certo il PD. Men che mai sindacati. Chi? Te lo dico alla prossima puntata. Ciao. Io abito nel Carso Triestino. Quando tira la bora è praticamente impossibile ascoltare la vostra emittente. Salute Milan e grazie per quello che potrà fare. Ciao Milan, mi chiamo Andrea. Senta, io volevo mettere in evidenza la vostra falsità. Dunque, quando Borghezio chiama, che ha sbagliato, per carità, è condannabile, chiama la gang Orango, tutti insorgono, scandalo contro scandalo. Ma quando gli altri deputati, gli altri partiti chiamano baldracche e puttane le deputate del Movimento 5 Stelle, nessuno dice niente. Ma come mai? Me lo spieghi? Allora, a parte che non era Borghezio, per una volta, ma era Calderoli. Qua, vabbè, dobbiamo parlare anche di questo. Ma Saluzzi, mi chiedono se c'è la bora a Trieste di fare qualcosa. Quando c'è la bora non quando si sente la radio. A Trieste voli via. Sì, ho capito. Dire, non si ascolta la radio. È stato un bel appello, devo dire. E che devo fare? Cioè, bora, fermati, non soffiare, no. Sennò non vabbè, si sente la radio. Però sapere certo. Che ecco, ci si preoccupi in caso di un vento che non si può fermare. No, è chiaro, di non ascoltare. Di non ascoltare. Speriamo che oggi. Mi ha preoccupato di più il suor Forcone. Cioè il fucile, che devo fare? Ma questi sono i rivoluzionari dei noantri, tutti che partiamo, andiamo, ma dove volete andare? Voi, sì, infatti. Sentite, Calderoli ieri ha citato Cicerone, dagli Oranghi a Cicerone. Senatores Boniviri, senatus Malabestia, diceva Cicerone, io ho sempre dato lealtà, lavoro e correttezza ai Boniviri. Oggi chiedo al Senato la stessa lealtà e la sua comprensione. Vabbè, Luca Dini, dobbiamo in 30 secondi liquidare questa faccenda, poi basta, perché insomma, sono 3 giorni che, non che non sia grave, ma sono 3 giorni. Cicerone? Adesso è Cicerone, Calderoli. Ma io no, io per me c'è solo un modo di liquidare questa cosa. Per fortuna Letta l'ha detto, secondo me l'unico modo di liquidarla sono le dimissioni. Io la trovo di una gravità sconcertante e trovo di una gravità sconcertante che si continui a dire ma ci sono cose più importanti di cui parlare. Fra 50 anni avranno più peso queste cose qua che il Monte dei Paschi o anche i kazaki, come dire. Sì, secondo me. Sì, ma io infatti ieri ne ho parlato tutti a dire ma appunto c'è altre cose più importanti, ma non è che il fatto che ci siano cose più importanti vuol dire che uno possa dire le peggio cose e tutto ma deve passare, tutto deve passare perché non è così. Che si deve scegliere se occuparci di questo oppure delle altre cose. Non è così. Mm-mm. Ci può occupare di tutto. Paola, tu hai un commento compiuto, sì, sulla che vicenda. Franti non esiste più. Cos'è che Franti non esiste più? Nel nostro paese, Franti, non esiste più. Libro Cuore. Franti è stato sdoganato, può fare, dire, salire, scendere, può dire quello che vuole, perché tanto, vabbè, dai, tanto è stato detto, pazienza. Secondo me, con toni di questo genere, prima o poi il tanto diventa un atteggiamento di troppo, e quando diventa troppo si sgrana la filigrana, e poi troppo nella storia li abbiamo visti. E diventano casi pericolosi. No, ma è chiaro, ma è chiaro. La cosa sicuramente è grave. E dopodiché... è grave. La cosa è grave, punto. Poi che uno abbia, anche io ho l'abitudine di assegnare periodi storici a certe facce. Quando viaggio in treno dico quello sarebbe bene nel 700, quello sarebbe bene nell'800. E anche noi diciamo quell'amico, Calderoli, quello sarà un cavallo. Calderoli dove lo metteresti? Lo metterei a scuola, a imparare le buone maniere. A scuola, vabbè, no, pensavo peggio con questa pausa. No. Quello lo dico, vabbè, no, basta. A scuola. Sentite, io ho un minuto, quindi non ho voglio molto... Voglio sapere cosa c'è su Vanity Fair. Ecco, insomma. No, allora, su Vanity Fair c'è Vanessa Paradis. Wow! No, dovrei dirlo io, wow! Cioè, non ho capito, Vanessa Paradis. Con Johnny Depp è finita, questa è la copertina, ma io purtroppo ho un minuto, quindi non posso approfondire, Luca, ma ci sarebbe davvero da approfondire. A me l'articolo che leggerò con maggiore attenzione è il racconto, passo dopo passo, che Sergio Ramazzotti fa su Vanity Fair accompagnando una persona a Basilea per compiere il cosiddetto suicidio assistito, un racconto ovviamente molto intenso, come potete immaginare, con anche le foto, eccetera. C'è una persona che volontariamente si va a togliersi la vita a Basilea, in una di queste associazioni che Svizzera lo fa. Che dire, noi ne abbiamo parlato anche con la figlia del magistrato Pietro D'Amico, è stata nostra ospite la scorsa settimana. Non lo so, Luca, ripeto, non ho molti secondi, però come mai avete fatto questa scelta? Ma semplicemente perché era una sua richiesta che questa cosa venisse raccontata, era una sua richiesta che non venisse detto chi è, cioè che non venisse divulgato il nome, anche se è facile capire che punti di contatto con la vicenda di cui tutti hanno parlato sono numerosi. Non è un giudizio, è semplicemente una testimonianza, perché si parla tanto di queste cose, forse capire che cosa succede, anche i discorsi giusti o sbagliati di chi lo fa. Questo sì, meno giudizi e più racconti in questo caso. Lo trovate su Vanity Fair. Io mi devo fermare, vi devo ringraziare tanto. Mercoledì prossimo, se vorrete, l'ultima volta prima delle vacanze. Grazie a Luca Dini, Vanity Fair e Paola Saluzzi. Oggi alle 15, Sky TG24 pomeriggio. A dopo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 16, le 16, che bell'esordio. Le 7 e 16 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui, se vi siete svegliati ora, ben svegliati. È il momento di leggere i giornali e ricordarvi i temi di cui parleremo più avanti tra un'ora esatta. Alle 8:15 avremo un rappresentante del CDA della RAI, Luisa Todini, per capire anche insomma questa vicenda. Non c'è più Miss Italia, il ruolo delle donne nella TV, chiacchierare di queste cose. Così come chiacchiereremo del Bengodi, della Camera, degli stipendi dei dipendenti della Camera. Oggi c'è un interessante dossier pubblicato dal Fatto Quotidiano e tirato fuori dal Movimento 5 Stelle. Perché? Perché anche Libero ha fatto un'inchiesta sugli stipendi dei dipendenti della Camera, circa 1500 persone per 11 rappresentanze sindacali, perché davvero si scopre che c'è un'Italia dentro il palazzo e un'Italia fuori del palazzo. Ne parleremo più avanti, ma anche tra poco in rassegna stampa. Allora andiamo appunto a sfogliare i giornali che trovate in edicola. È mercoledì 17 luglio, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre sui conti INPS che tornano in rosso. I conti INPS tornano in rosso, questo è il titolo di apertura. 3 pensionati su 4 non arrivano a 1000 euro mensili. Questo è un dato che riguarda la concretezza viva e vera delle cose con cui avere a che fare ogni mese per molti italiani. Poi tutti gli altri quotidiani aprono su che cosa? Il caso kazako. e la vicenda Alfano. Alfano, il governo era all'oscuro, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Shalabayeva paga solo la polizia, cioè Shalabayeva è il nome della donna, moglie del dissidente kazako. Alfano ridicolo, non conto nulla, ma il PD come fa ad accettarlo? Così apre il Fatto Quotidiano. La Stampa, Alfano, io Eletta all'oscuro. Il Messaggero, Alfano si difende, non sapevo. Libero, debito senza freni e noi pensiamo ai kazaki. Palazzo lontano dalla gente. Per il Giornale, assalto al governo, Renzi pugnala Letta. La vicenda sempre del Kazakistan. Per il Manifesto c'è la foto di Alfano, il titolo è Il Ministrello. Mentre per il Secolo XIX Alfano si assolve e il PD gli crede. L'Unità, Alfano, ministro inconsapevole. Avvenire invece, cadono le teste sul caso kazako. Tra l'altro c'è un periglioso accostamento delle parole teste e kazako. La strage degli innocenti invece è il titolo del Giorno, il quotidiano nazionale, la vicenda di cronaca dei fratellini carbonizzati in un rogo a Brescia, e è molto sospettato il padre che aveva varie denunce per stalking, aveva detto alla moglie non accettava la separazione, li ammazzo. Allora, vogliamo partire proprio dai costi dei dipendenti della Camera? Avete le mani strette sul volante, cari ascoltatori? Ben strette? Tazzine di caffè, di cappuccino appoggiate? Così come le brioche, soprattutto se contengono la crema, mi raccomando, c'è chi mi scrive in treno che fare, classica posizione di atterraggio d'emergenza, e in bicicletta mani sul manubrio, dopodiché in moto mani sul manubrio e basta, no? Poi ci siamo capiti. Case, foto, indennità. La Camera finisce sotto l'apriscatole. Pagina 7 del Fatto Quotidiano racconta, il Fatto Quotidiano, c'è questo rapporto del Movimento 5 Stelle che mette insieme un po' tutte le prebende di cui possono godere i dipendenti della Camera. Montecitorio, il costo del personale, ricordate, è oltre il 25% del bilancio complessivo, si tratta di 280 milioni l'anno, 231 per le retribuzioni, 48 milioni per i contributi. Che cosa c'è tra pensioni, vitalizi, stipendi e altre voci sparse? Il peso degli eletti sul bilancio di Montecitorio si aggira sui 281 milioni di euro. Il re è il segretario generale, il vero dominus. Ugo Zampetti, dipendente dal 1976, al vertice della Camera dal 1999 come segretario generale, la sua retribuzione base sarebbe di 405.000 euro, ma solo all'inizio, dopo un anno, ha avuto uno scatto del 5%, poi uno del 2,5% ogni due anni. Secondo il Movimento 5 Stelle, il suo stipendio attualmente supera i 600.000 euro. 600.000 euro. Ovviamente tutti condizionali, perché i dati sono un po' misteriosi, per la verità, e noi avremo ospite la vicepresidente della Camera, Marina Sereni, che sta cercando di gestire proprio il delicato rapporto con i sindacati. Pare che ora si voglia pubblicare un po' tutto. Speriamo. Il paradiso dei consiglieri, sono tra le figure apicali della Camera, sono 180 a fine carriera, arrivano a guadagnare circa 400.000 euro l'anno, sono i consiglieri parlamentari, sono un ruolo chiave, diciamolo subito, quelli che aiutano a scrivere le leggi. Ogni 12 mesi, quindi ogni anno, hanno diritto a 41 giorni di ferie, quelle non godute possono essere cumulate e usate per anticipare l'andata in pensione. Poi i distaccati, molti dipendenti della Camera sono in servizio presso altre strutture dello Stato, ma continuano a percepire lo stipendio da Montecitorio, come il caso di Enrico Pucci e Alessandro Manunta, consiglieri con stipendio da 20.000 euro netti al mese, entrambi in servizio presso la Presidenza della Repubblica. Ci sarebbero poi 12 dipendenti che sommano la pensione ad altri incarichi, ma è impossibile sapere i nomi, perfino ai deputati è negata questa possibilità. Poi ogni deputato può chiedere un rimborso di 2.500 euro per comprare PC, tablet e qualunque altro prodotto che abbia a che fare col computer, e questo già si sapeva. Insomma, i dati dei dipendenti della Camera, dopo Libero, anche il Fatto Quotidiano, prendendo spunto da questo report del Movimento 5 Stelle, pubblicano questo dossier sulle spese di Montecitorio e noi ne parleremo alle 8.30. Sappiate che secondo l'Economist, che ha fatto una classifica, perché in Gran Bretagna stanno pensando di aumentare, non ho sbagliato il verbo, aumentare lo stipendio dei parlamentari. Ebbene, è stato fatto un rapporto dall'Economist, hanno fatto tutto uno studio di quanto guadagnano i deputati nel mondo in base alla popolazione normale, alla popolazione media. Ebbene, sappiate che in Nigeria è il paese dove il reddito lordo annuo dei parlamentari è del 116% in più rispetto al cittadino medio in Nigeria. L'Italia però è al decimo posto. In Italia i nostri politici sono i più pagati d'Europa rispetto alla popolazione media, guadagnano 6 volte in più dei cittadini medi, 6 volte in più di voi cittadini medi, se siete cittadini medi che state ascoltando, che avete uno stipendio medio. Comunque ne parleremo alle 8.30. Ora, vorrei concentrarmi su una vicenda di quelle che, oltre che da mani sul volante, adesso qua rischiate di spaccarlo il volante, io lo so, però noi non rimborsiamo nulla, sia ben chiaro. Lo dico preventivamente prima di quelli che mi scrivono: ho spaccato il volante a pugni e invece no. No, mani strette, karma, pensare e respirare profondamente. Poi leggere pagina 11 di Repubblica, Emanuele Lauria, già dal titolo è tutto un programma. Sicilia sussidia i precari, ma erano in carcere per mafia. Avete capito questa bella storia che proviene dalla Sicilia? Emanuele Lauria, chi doveva impedirlo non lo ha fatto, chi doveva controllare sì, anche lui non lo ha fatto. E cosa ha fatto? Si è voltato da un'altra parte. Così nella regione siciliana, che il governatore Crocetta definisce un pozzo di San Patrizio del malaffare, capita questo: 48 precari ricevono un sussidio da 800 euro al mese restando in carcere. L'amministrazione ha retribuito regolarmente i dipendenti di una Onlus, la Social Trinacria, che invece di andare a lavorare erano detenuti per reati gravissimi, nel 70% dei casi reati di mafia. Così ha spiegato Crocetta, che ha reso pubblico l'elenco dei nomi dei carcerati sul foglio paga della regione, redatto con collaborazione della Questura. Questi precari fanno parte del bacino degli oltre 3.000 soggetti svantaggiati che negli ultimi 15 anni hanno lavorato per il Comune di Palermo e poi gli uffici dell'amministrazione regionale, a carico ovviamente sempre di quest'ultima. 36 milioni di euro di spesa annuale ogni anno. In cella, ha detto Crocetta, sono pure coperti dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni. Sorride amaro così il governatore, che ha annunciato la revoca dei sussidi e la segnalazione del caso all'autorità giudiziaria. Invieremo l'elenco anche alla Corte dei Conti, avvieremo un'azione di recupero delle somme. Parliamo di un'appropriazione indebita di 600.000 euro per 3 anni, 1.800.000 euro sottratti alle casse della regione. Per carità, nei bilanci di una regione come la Sicilia, 1.800.000 euro... non bisogna vedere in maniera qualunquista, sono pagliuzze, sono briciole, 1.800.000 euro nel bilancio di una regione. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto, cari italiani? Sussidi ai precari, uno Stato, lo Stato che pagava i sussidi ai precari con tanto di copertura infortunio INAIL, 800 euro al mese a persone che erano in carcere in molti dei casi per mafia. E qualcuno ha detto sì, si faccia, avrà messo la firma, avrà dato l'autorizzazione. Vabbè, a proposito di lavoro e difficoltà, il lavoro non c'è per molti in Italia, ma c'è per, e siamo contenti per lui, Antonio Ingroia, l'ex magistrato, abbandona la magistratura dopo il fallimento politico e Crocetta, quindi siamo sempre in Sicilia, lo ricicla, scrive Libero. Sale sul carrozzone siculo, ebbene sì, la Sicilia ripesca Ingroia anche per il quotidiano nazionale, avrà una poltrona, nuovo commissario di Sicilia e Servizi, società pubblica per l'informatizzazione. Anche sul Corriere della Sera, Ingroia, soddisfatto, dice: avrò questo lavoro, sono molto orgoglioso, sono molto felice. ritorno in Sicilia per Ingroia, sarà commissario di una società nominato da Crocetta, a pagina 9 del Corriere della Sera. Non sarò più magistrato, stavolta farò il commissario. A parte le battute, sono davvero felice di questo nuovo incarico, per me è una grande emozione, sarà il mio primo incarico da quando ho lasciato la toga. Metterò ordine in questa società. Ecco, così parlò Antonio Ingroia, riciclato e commissario della società della Regione Sicilia e servizi. Vabbè, con tanti posti di lavoro, con tante personalità, evidentemente c'era bisogno di piazzare lì Antonio Ingroia. Ci fermiamo alla pubblicità del meteo e poi ripartiamo da che cosa? Dal caso kazako, kazaki vostri. Questa è la situazione di governo che regge, non regge, pare di sì, in nome dell'insaputismo. Pare che nessuno o pochi sapessero di questa vicenda. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora, alle 7:34 minuti, parliamo di questa vicenda kazaka. C'è quotidiano che non dedichi almeno 7-8 pagine a questa vicenda, con Alfano che ieri ha detto sono qui a parlare in Parlamento di una vicenda di cui non ero stato informato, di cui nessun ministro era stato informato. Cioè il fatto che abbiamo restituito al Kazakistan con un blitz di forze dell'ordine una donna e sua figlia. Questa donna è la moglie del più importante dissidente del dittatore del Kazakistan, Nazarbayev, e le abbiamo consegnati, ma il ministro non sapeva. Aggiornare il listone, tra l'altro, riconsegna di persona a nostra insaputa, a mia insaputa. Allora, c'è tutto il resoconto parlamentare. Alfano, il governo non sapeva, questo è il titolo per esempio del Sole 24 Ore, pagina 11, che riassume bene la posizione del ministro. E c'è chi? Giuseppe Procaccini, che è il funzionario, il capo di gabinetto del ministero, che per ora ha fatto le spese in questa vicenda, si è dimesso, che ora fa una serie di interviste un po' ovunque, uno sfogo raccolto non sotto forma di intervista ma di racconto da Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera. Informai il ministro, mi sento offeso. Il capo di gabinetto dice: fu Alfano a chiedermi di incontrare l'ambasciatore. Ho ricevuto l'ambasciatore kazako al Viminale, me lo disse il ministro spiegandomi che era una cosa delicata. L'incontro finì tardi e quindi quella sera non ne parlai con nessuno. Ma lo feci il giorno dopo, spiegando al ministro che il diplomatico era venuto a parlare della ricerca di un latitante. Lo informai che avevo passato la pratica al prefetto Valeri. Dunque, scrive Fiorenza Sarzanini, Procaccini lo dice, consapevole che il ministro continuerà a negare, come del resto ha fatto ieri in Parlamento. Questo Procaccini fa una serie di interviste a Repubblica, intervistato da Carlo Bonini, a pagina 4. Informai subito il ministro delle richieste dei kazaki, lascio per senso del dovere. In pratica la versione è: mi è stato detto dall'ambasciatore, siamo venuti a prendere un latitante kazako, non sapevo invece che alla fine dovevano prendere una donna. Non mi venne comunicato del fermo della signora, di sua figlia, mi venne solo comunicato dal dipartimento in modo sintetico che la ricerca del latitante in questione aveva dato esito negativo. Non seppi nulla di più della signora Shalabayeva quando ha saputo, chiede Repubblica, dai giornali. Ma come dai giornali? Dai giornali, ripete così la risposta il prefetto Giuseppe Procaccini, che due giorni fa si è dimesso da capo di gabinetto del ministro Alfano. Così ripete al Fatto Quotidiano, aggiunge qualche particolare in più, dice a pagina 2-3: io ora alla signora Shalabayeva, se potessi, chiederei scusa, dice Procaccini, ma io pensavo e mi avevano detto che andavano a prendere un latitante. Si sta prendendo la croce, chiedono Marco Lillo e Valeria Pacelli. Affatto, io mi trovo ad essere testimone di quello che è avvenuto. Mi sono limitato ad avere notizia di un pericoloso latitante armato che poteva arrivare. Sono notizie delicate. Se poi davvero si fosse trattato di un terrorista, io ad oggi sarei stato accusato per avere sottovalutato un pericolo dello Stato. Le assicuro, sono a posto con la mia coscienza dal mio punto di vista. Ora, alla signora chiederei scusa, ma le chiederei anche perché non ha detto le cose come stavano. Questo è l'unico passaggio messaggio che non ho capito. Certamente c'è un'anomalia nel suo comportamento. In Italia si può parlare, i nostri uffici sono rispettosi. Insomma, Procaccini, intervistato anche dal Messaggero, da Sara Menafra, a pagina 3, dice: io avvisai il ministro. Allora la questione è, cari italiani, voi credete alla versione di Alfano, al di là del fatto di come politicamente la pensiate? Cioè, credete che sia possibile mobilitare tutta una serie di persone, prefetti, strutture del ministero, blitz della polizia, e pensare che davvero il ministro non sapesse, che nessun altro ministro, anche il ministro degli esteri Emma Bonino, non sapesse? Tra l'altro ne parlerà Simone Spezia alle ore 9 di questa vicenda, tornerà su questa vicenda. Oggi Iena, beh, è un modo anche per affrontare questa vicenda con l'ironia, il graffio solito di Riccardo Barenghi. Iena, appunto, a pagina 3 della Stampa: Alfano non vede, non sente, ma purtroppo parla. E a parte questo, parla soprattutto Silvio Berlusconi, rompe il silenzio, lo fa con il Corriere della Sera. Non è una vera e propria intervista, ma è un colloquio che Francesco Verderami mette per iscritto a pagina 7. Berlusconi blinda il vice premier, tutta roba di burocrati e toghe. Questa è la versione di Berlusconi. Alfano non ha nessuna colpa, non si tocca, non si tocca né lui né il governo. Non vedo nulla che possa mettere in discussione la stabilità, nulla che possa provocare una crisi. Col debito pubblico, con l'economia in crisi, con i segnali negativi, la disoccupazione, il credito alle imprese, il costo del lavoro, qualche responsabile pensa davvero di far saltare Alfano per far saltare il governo? Non scherziamo. Anche queste mozioni di sfiducia sono una indegna gazzarra in una fase tanto drammatica per il paese, cose che si commentano da sé. Così Berlusconi, che scrive il Corriere, rompe il silenzio su una vicenda che certo definisco scabrosa, ma che non può essere da ostacolo alla durata del governo. E Berlusconi punta il dito contro il vero colpevole: è la burocrazia che ha deciso di poter fare da sola, muovendosi in piena autonomia, con l'avallo, ricordiamolo, di quattro, dicasi quattro magistrati. O i giudici sono bravi solo quando si occupano di Berlusconi? E no, i magistrati hanno dato validità formale al provvedimento di espulsione. Ai miei tempi, ricorda Berlusconi, quando venne perpetrata intrusione nella mia vita privata con dispendio di mezzi e uomini, il titolare del Viminale dell'epoca non sapeva nulla di nulla e non seppe mai nulla. Non c'è da stupirsi, è la burocrazia, si comporta così, loro dicono, loro è la burocrazia, i funzionari. È arrivato uno nuovo al ministero, va bene, tanto tra poco andrà via, gli subentrerà un altro, mentre noi restiamo e siamo noi a comandare. Ecco, per Berlusconi la colpa è la burocrazia, dunque la catena di comando di funzionari, in questo caso al Viminale. E dice ancora Berlusconi al Corriere: vengo sempre tirato in ballo, anche questa vicenda che avrei incontrato Nazarbayev in Sardegna, non ho alcun rapporto di amicizia e figurarsi di intimità con lui, sono stato ad Astana, la capitale del Kazakistan, una sola volta, non sono l'unico tra i capi di Stato e dell'Occidente ad averlo incontrato. Quanto alla storia che l'avrei visto in Sardegna è una falsità, quel giorno non mi sono mosso da Arcore. E poi come avrei potuto? Galliani mi ha detto che la villa dove Nazarbayev ha soggiornato non ha lo spazio per far atterrare un elicottero. Quindi, come avrei potuto? Ecco, questo Berlusconi che dice non può su questo cadere il governo. Trovate il colloquio a pagina 7 del Corriere. Berlusconi blinda il vice premier, tutta roba di burocrati e toghe, caso esemplare, quell'atto è stato avallato da quattro magistrati. Vabbè, la vicenda è questa, l'imbarazzo in realtà è anche tra Letta e Renzi, addirittura il giornale titola così: Renzi pugnala Letta, PD nel caos. Effettivamente il giornale fa un po' il gioco anti-PD, ma la vicenda c'è di rapporti tra Renzi e Letta anche su questa storia kazaka. È molto difficile, anche Monica Guerzoni racconta sul Corriere della Sera, pagina 6, come l'imbarazzo di Letta, che ora cerca di fermare Renzi, basta col gioco al massacro, il timore di Letta che è in Inghilterra, deve incontrare il premier David Cameron. L'idea è quella di Letta di tornare da Londra, una volta tornato da Londra, incontrare Epifani, vertici, gruppi del PD, perché il PD rischia davvero di frantumarsi. Perché Renzi ha detto, il premier Letta, vada in aula, prenda posizione su questo. E vabbè, tra l'altro Libero invece mette gli incontri di Prodi con Nazarbayev, di Napolitano le strette di mano con Nazarbayev, di Ciampi con Nazarbayev, quando Prodi e Napolitano omaggiavano il Kazakistan. La sinistra ha flirtato col presidente Nazarbayev, che oggi tratta da appestato. Secondo Der Spiegel, addirittura Romano Prodi è un consulente di Nazarbayev. Napolitano lodò le sue idee eccellenti in passato. Quindi Libero dice adesso fanno tutti i kazaki o gli anti-kazaki. Beh, in tutto questo un ministro invece che è un po' in secondo piano è Emma Bonino, eppure è ministro degli esteri, quindi c'entra in questa vicenda. E come? Bonino ha convocato l'ambasciatore del Kazakistan in Italia e questi costui gli ha risposto: sono in ferie. Così titola e sintetizza pagina 4 il Fatto Quotidiano: Bonino convoca l'ambasciatore, lui, io sono in ferie. E vabbè, questa è la vicenda kazaka, racconta Repubblica, tra l'altro in un retroscena di Goffredo De Marchis, che il Quirinale, al quale Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, fa un appello, dice ora parli su questa vicenda, in realtà il Quirinale sta in silenzio, il Quirinale sceglie la prudenza, non si può indebolire il governo. Questa è la versione di Repubblica, pagina 7, insomma, in nome della stabilità di governo tutti non sapevano e a tutti va bene così. Così si può sintetizzare la vicenda. Mentre la vicenda Chieng ha avuto ancora sviluppi, l'altra vicenda di cronaca e politica che ha tenuto banco in questi giorni. Calderoli non si dimette, chiede scusa, ha stretto anche la mano al ministro Chieng ieri in Parlamento. Letta dice Maroni e Correo, Calderoli quindi tiene alta la tensione su questo. Registro sulla vicenda Chieng: Giovanni Sartori torna a scrivere. Ricordate che di recente aveva scritto un articolo critico nei confronti della nomina della ministra Chieng ed era finita a pagina interna 18 del giornale, del Corriere, con Sartori che diceva lascio il Corriere, una vergogna. Ora torna a scrivere e l'articolo è il fondo di prima pagina del Corriere della Sera, quindi notizia per gli addetti ai lavori e chi è appassionato a queste cose. Pare ricomposto il rapporto tra Sartori e il Corriere. E terzo mondismo in salsa italica, Giovanni Sartori sul dibattito immigrazione e integrazione torna a scrivere: io ho scritto un libro per spiegare quali siano i requisiti dell'integrazione etico-politica, ho già avuto occasione di scrivere che il governo Letta è il più scombinato in fatto di competenze e incompetenze della nostra storia, nullità che diventano ministri, brave persone messe al posto sbagliato. Per esempio, chi ha imposto a Letta una donna nera, bianca, gialla, non fa alcuna differenza, specializzata in oculistica a Modena per il delicatissimo dicastero dell'integrazione? A chi deve la sua immeritata posizione la nostra brava Chieng Kaschetu? Tra i tanti misteriosi motivi della politica e misteriosi misteri della politica italiana, questo sarebbe davvero da scoprire. E ancora, dice Sartori, un'altra raccomandata, a quanto pare anch'essa di ferro, da chi? Da chi? Chiede Sartori. È la presidente della Camera, Boldrini. In questo caso le credenziali sono davvero irrisorie, molta sicumera, molto presenzialismo femminista, ma scarsa correttezza e anche presenza del mestiere che dovrebbe fare. La prossima volta il presidente Napolitano ha già fatto sapere che se il governo Letta cadesse, l'incarico di Presidente del Consiglio verrebbe di nuovo conferito a lui. Spero che in questa eventualità Letta sia messo in grado di scegliere un buon governo di persone giuste, al posto giusto. O siamo forse arrivati alla P3? Insomma, così Giovanni Sartori che critica le scelte dei ministri. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, anche sull'economia, sulla flessibilità per i contratti in vista dell'Expo, che cosa ha deciso di fare? Ieri il ministro Giovannini, ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia qui a Radio 24, ha detto i sindacati decidano e trovino un accordo entro il 15 settembre, cioè, traducendo, come scrive il Corriere con Enrico Marro a pagina 12, anche sulla flessibilità dei contratti il governo nella sostanza ha scelto il rinvio al 15 settembre. Entro il 15 settembre i sindacati devono trovare un accordo, se no il governo procederà quando? In autunno! Sva Sandir, eh no? Tutti in autunno aggiornare flessibilità dei contratti F35, ticket sanitari, IMU, IVA, spending review, abbattimento del debito pubblico, vendita dei beni immobili, cioè tutti in autunno, tranne la tranche del finanziamento ai partiti. Questa il 31 luglio verrà incassata dai partiti, 91 milioni che dovranno distribuirsi. Il Movimento 5 Stelle, sapete, è l'unico partito, lo devo dire, se no mi dicono che non lo dico, lo diciamo sempre. È l'unico partito che non rinuncia a questi finanziamenti, anzi oggi si voterà una mozione del Movimento 5 Stelle per chiedere che tutti rinuncino. Come andrà a finire? I bookmakers neanche accettano le scommesse. Ovviamente la mozione verrà respinta il 31 luglio, quindi non in autunno, l'unica cosa che non slitta in autunno, i partiti incasseranno un bel malloppone, 91 milioni di euro da distribuirsi. In tutto questo, anche per quel che riguarda l'economia e l'apertura del Sole 24 Ore, l'INPS va male come conti, conti in rosso. L'accorpamento tra INPS e INPDAP ha portato ieri la relazione di 5 anni di gestione del presidente dell'INPS Mastrapasqua a portare in rosso i conti dell'INPS, come racconta Davide Colombo, pagina 3 del Sole 24 Ore. L'INPDAP porta in rosso l'INPS, il bilancio torna negativo, meno 9 miliardi a causa della fusione. Per quanto riguarda le erogazioni, Mastrapasqua ha detto sono e saranno sempre pagate regolarmente. Mastrapasqua, ecco, anche lui è finito nel mirino come stipendio, si parla di 1 milione rotti di euro l'anno. Guardando alle prestazioni, racconta il Sole 24 Ore, il nuovo INPS ha erogato nel 2012 21,1 milioni di pensioni sia di natura previdenziale che assistenziale a circa 15,9 milioni di cittadini, una spesa complessiva di 261,3 miliardi di euro. Il 14% dei pensionati ha un reddito inferiore a 500 euro, il 31% dei pensionati ha redditi tra i 500 e i 1000 euro, in media comunque 3 pensionati su 4 prendono meno di 1000 euro al mese. Questo è il dato davvero poco confortante. Ovviamente diverse le gestioni, i trattamenti previdenziali del vecchio INPS, la media è di 881 euro, mentre quello della gestione dei dipendenti pubblici la media è di 1725 euro al mese. Ripeto, 881 euro, dipendenti pubblici 1725 euro al mese, queste le medie delle pensioni. Comunque tutti i dettagli li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Devo andare di fretta perché c'è la pubblicità e il GR che incombe. Allora, c'è tanta cronaca. La cronaca che prima ha colpito è quella del rogo a scuola, il rogo al liceo Socrate. Ma che la vicenda al liceo, antiomofobia, quattro studenti che si sono ubriacati, sono stati bocciati, si hanno preso una sbronza e hanno detto bruciamo la scuola. Questo, come racconta Gramellini nel suo Buongiorno, dovrebbe insegnare tanto anche ai giornalisti. Quando nella notte tra il 12 e il 13 luglio una tanica di benzina irritata a dovere da un fiammifero si mangiò l'intero primo piano di un liceo romano, irresistibile fu la tentazione di dare coloritura ideologica alla vicenda. Il liceo era il Socrate, porto sicuro per gay e minoranze vessate. In passato l'estrema destra ne aveva deturpato i muri perimetrali con slogan omofobi. Si parlò di atto terrorista, attacco al libero pensiero, ma anche quattro studenti hanno confessato di aver incendiato la loro scuola. È una lezione importante, scrive Gramellini, per noi tromboni e trombette che nel commentare l'attualità siamo indotti a spremere dai fatti un valore universale a spiegare la violenza con motivazioni ideologiche ancorché bieche. Non erano omofobi gli incendiari, ma persone incapaci di accettare una sconfitta, un vuoto di carattere che provoca meno indignazione, forse perché, e qui riparte un po' la trombetta, è molto più diffuso, scrive Gramellini. Siamo al premio, la carta costa. Beh ragazzi, oggi è straordinario. Siamo sulla Stampa a pagina 23, ma voi lo sapevate che cantare in coro fa vivere e respirare meglio? La Stampa, un'intera pagina, Vittorio Sabadin. Un'inchiesta e una ricerca dell'università svedese cantare in coro fa vivere meglio, i battiti del cuore si sincronizzano già dopo le prime note, per un'intera pagina si spiega come una bella cantata in coro fa bene, che uno va bene, però una volta che legge poi il giorno dopo questo articolo sulla stampa, gli passa il beneficio della cantata in coro e gli ritorna lo stress, perché uno pensa, ma la carta costa, cari colleghi della stampa, ma insomma, cantare in coro è come lo yoga, fa vivere e respirare meglio. 24 mattino. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare un pochino di TV e di donne, perché due giorni fa la Presidente della Camera Boldrini, lo sapete, ha detto in Italia l'immagine che proviene dalla TV delle donne è un'immagine spesso negativa, il 2% delle donne in TV parlano, le altre sono mute, e nella pubblicità si utilizzano ancora vecchi stereotipi. Voglio partire da qui per fare una chiacchierata con uno dei membri del CDA, del Consiglio di Amministrazione della RAI, Luisa Todini, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, la domanda che le faccio secca, ma la TV italiana mercifica così il corpo delle donne, secondo lei? Bah, adesso no, non esageriamo. Distinguerei effettivamente tra quello che è il dovere di una RAI, che quindi fa servizio pubblico, e quelle che sono le TV commerciali. Se proprio vuole arrivare al punto, dal mio punto di vista è che Miss Italia o le sfilate delle Miss nel mondo sono trasmesse, ma al 99% da TV commerciali. Non ho contezza di TV pubbliche che trasmettano, o l'ammiraglia delle TV che trasmetta show di questo genere. Fanno bene, secondo lei? Cioè è giusto non dare spazio sulla TV pubblica a questi eventi? Ma guardi, sono eventi a cui per carità il pubblico si affeziona, però noi siamo arrivati ad una determinazione, ed è stata una determinazione collegiale su proposta dei direttori di rete ovviamente, questo formato è obsoleto, e lo ha detto anche la patrona, la Mirigliani, più volte sulla stampa, e soprattutto è un formato che non ha cosiddetti economics interessanti per la RAI, perché la RAI perde con questo format. Okay. Allora bisogna rivederlo. Siccome noi abbiamo il dovere di vedere la parte economica e la parte di offerta di servizio pubblico, formato obsoleto da rivedere, non più interessante dal punto di vista economico, bisogna ripensarlo. No. Però questo in è un questi approccio... termini Miss Italia è stata eliminata. Poi si è scatenata tutta una polemica, infatti, anche un po' ipocrita, se mi permette. Perché, mi scusi, questo è un approccio economico e ci sta, uno guarda i conti e dice bisogna fare in modo che... No, ma anche un formato obsoleto, lei ricorderà che era su 4 serate, sì, insomma, sì, una cosa un po'... Però l'approccio del Presidente della Camera è un qualcosa di più, cioè a dire non è giusto dare quell'immagine della donna attraverso questo tipo di manifestazioni. Allora io rispetto ovviamente il pensiero della Presidente, che condivido in parte, le spiego perché in parte. Allora, fare la showgirl è un mestiere e io non mi sento di giudicarlo, no? Ovviamente fare la showgirl vuol dire anche presentarsi in una certa maniera e mettere da parte l'ipocrisia che il corpo femminile bisogna coprirlo per forza se si vuole fare uno spettacolo leggero di un certo tipo. Io penso che il corpo femminile coperto possa essere anche più piacevole e più sexy, se mi permette questa espressione, alle 8 del mattino. Questo è un mio punto di vista, quindi non bisogna per forza scoprirsi per mostrare quello che è un talento fisico, se così vogliamo dire. Trovo è un pochino esagerato calcare il punto sul fatto che non bisogna avere per forza spettacoli un po' leggeri, ma le ripeto, la questione, sì, di Miss Italia è una questione economica e di ripensamento di un format considerato obsoleto da tutti, compreso da chi detiene il brand, se così possiamo chiamarlo. Vede un pochino di snobismo in questo. Per esempio Fiorello, un grande uomo di spettacolo, sì, ha detto ma che male ha fatto Miss Italia dal punto di vista, non ha mai fatto male a nessuno, al di là dell'aspetto, ripeto, cioè accantoniamo l'aspetto economico, proprio dal punto di vista culturale, se vuole. Però ripeto quello che ho detto all'inizio, mi perdoni, non ha fatto male a nessuno, però in nessuna parte del mondo lo trasmette la prima rete nazionale, quindi è giusto probabilmente che torni ad una rete commerciale. Stavo leggendo e non ricordavo proprio ieri che la prima Miss Italia fu trasmessa da Tele Lombardia, che era una rete commerciale all'epoca di Silvio Berlusconi, e quindi ha un senso, nel resto del mondo è così. Poi Miss Italia abbiamo tante Miss Italia che sono diventate bravissime showgirl, ma bravissime attrici o anche bravissime mamme di famiglia, insomma voglio dire non c'è l'ipocrisia del Miss Italia che rovina una vita, anzi tante vite le ha le ha costruite ed è un'esperienza per tante ragazze, quindi io assolutamente metto da parte questo genere di ipocrisia. Non abbiamo più ritenuto che fosse uno spettacolo in questi termini da TV nazionale, dalla prima rete di TV nazionale. Secondo lei anche il fatto, per esempio, non ci sarà l'Isola dei Famosi, cioè è giusto che la RAI, soprattutto la TV e soprattutto la TV pubblica, recuperi un ruolo quasi dire pedagogico, oppure anche questi sono discorsi un po' radical chic, ecco, un po' snobisti? No, non c'è niente di radical chic, guardi, io credo che siccome i cittadini pagano il canone e tutti i cittadini hanno diritto di avere spettacoli di genere diverso, ma nessun spettacolo che possa offendere o che sia eccessivamente trash, io sono d'accordo che alcuni tipi di programmi vengano messi da parte e magari vengano poi ripresi o da TV commerciali o penseremo magari di metterli su quelli che sono non più i canali generalisti ma i canali tematici. Insomma, poi per carità c'è questo strumento super democratico che si chiama telecomando che ci permette di cambiare. Non ricordiamoci così. Che se sì. Noi puntiamo il telecomando su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e gli altri canali Rai, ognuno di noi sta pagando un pezzo di quel canale, per cui è giusto pensare all'indole di ognuno di noi. Di qualità anche, una TV di qualità. Senta, le faccio qualche domanda appunto sulla RAI. Per esempio, sa che il Movimento 5 Stelle sono molto agguerriti, no? Su sì. Questo, del volere aprire forse con un'apriscatole anche la RAI a questo punto, insomma, oltre al Parlamento. Loro dicono basterebbe un unico canale e tra l'altro senza pubblicità, perché già si paga il canone. È ipotizzabile le due cose? Una discussione aperta da tempo, ci sono altri importanti broadcast internazionali ed europei come la BBC o altri che sicuramente possono raccontare delle best practice, come possiamo raccontare delle best practice anche noi, perché insomma non dobbiamo pensare che la RAI sia tutta negativa perché viene presa a modello da tanti altri broadcast. Io ho sempre espresso, sempre pensato per esempio che ci volesse un'informazione unificata e quindi che ci potessero essere meno sprechi e più sinergie da questo punto di vista. Quindi lei dice basta TG1, TG2, TG3, insomma un'informazione. Prego, scusi, no, non cioè basta TG1, TG2, TG3, ma più una unificazione di attività informativa che poi possa essere riversata e anche magari declinata all'interno dei vari TG, perché poi ognuno ha la sua linea editoriale, però negli altri broadcast generalmente avviene così. Stiamo provando a farlo per esempio con l'All News, no? con il direttore Monica Maggioni, sicuramente oggi c'è un ripensamento di tutta quella che è l'informazione che poi viene riversata anche negli altri TG. Però, per tornare al canale di cui lei parlava prima, senz'altro l'ipotesi di un canale che possa essere un canale considerato soltanto pubblico, il resto dei canali che possono avere anche degli spazi commerciali, è un dibattito che si sta facendo da tempo e si sta facendo anche all'interno di questa consigliatura. Ma lei come la vede? Cioè, nel senso, la vede come posizione? Sarebbe favorevole a un unico canale e poi soprattutto vivere senza la pubblicità, vivere di canone? Guardi, alcune fasce sono state sperimentate, si sta guardando quello che può essere la cura migliore, però ricordiamoci che noi abbiamo anche ereditato, dico, come consigliatura una RAI molto complicata, ma non soltanto perché c'è stato un problema di gestione precedente, perché abbiamo avuto un calo della pubblicità che ha portato quest'anno per esempio a più di 200 milioni di euro di crollo rispetto al ricavo pubblicitario, per cui è vero che noi abbiamo molto canone, ma con quel tanto canone facciamo programmi che non devono tener conto necessariamente dello share come tiene conto la TV commerciale, quindi oggi abbiamo proprio un problema di riassetto. Cioè dice già è si vero, sono persi 200 milioni di pubblicità, forse in questo momento sarebbe troppo, un salasso esatto, troppo grande da pagare. Però è vero che abbiamo approvato un piano industriale in cui in 3 anni rimettiamo in sesto una RAI, se avremo tutti gli strumenti giusti e se potremo continuare con questi economics come ci siamo dati, come stiamo verificando, rimette in sesto un'azienda che è l'azienda culturale più grande d'Italia, ma forse più grande d'Europa. Naturalmente bisognerà fare dei sacrifici e bisognerà anche ripensare dei format come ad esempio quello di Miss Italia. E sul canone RAI invece l'annosa questione di come contrastare l'evasione fiscale. C'è chi dice metterla in bolletta e però non è mai passata. Lei come farebbe personalmente? O cosa direbbe a uno che non paga il canone della RAI, che lo sai è una delle tasse considerata forse la più odiata dagli italiani? Cosa direbbe a uno che dice io non pago il canone della RAI? cosa posso dire? Posso dire che sta facendo del male a se stesso, perché non pagandolo poi non può pretendere di vedere cose di qualità o di un certo tipo, perché naturalmente fare televisione costa. Noi poi abbiamo all'interno dei nostri obblighi di servizio pubblico di tenere anche aperte tutte le sedi regionali, perché anche le sedi regionali non sono economiche, tra virgolette, dal punto di vista della gestione aziendale, ma sono una necessità per raccontare quello che avviene nelle regioni. Per cui chiunque non paga il canone RAI poi non può pretendere che ci sia una RAI o una televisione che raccontino tutto quello che deve essere raccontato e che facciano qualità. Per cui non posso che fare appello al senso di responsabilità di pagarlo. Noi però gli appelli sì, ma come fare proprio per poi farlo pagare? Perché sa, gli appelli, gli italiani dicono vabbè, io non lo pago, chi se ne frega. Purtroppo qui se lo faccio raccontare da Befera quelle che sono le difficoltà di chi evade le tasse in Italia, che mi permette di dire che vengono controllati sempre i soliti noti, ma invece ci sono migliaia di ignoti che purtroppo sono irrintracciabili. La tracciabilità, guarda caso, è soltanto per i soliti noti. Io ho un grande gruppo industriale alle spalle che ogni anno ha, come previsto dalla legge, verifiche continue, e quindi sono lì da dire che pago tutte le tasse sia personalmente che a livello aziendale. Però il problema è proprio di una cultura dell'evasione. Che colpisce soprattutto il cano. Senta, le faccio quest'ultima domanda. Lei, Luisa Todini, farebbe, perché qua per esempio il presidente della commissione di vigilanza RAI ha detto, ma potrebbe essere proposto, farebbe un CDA della RAI in streaming, diretta streaming, sa che il Movimento 5 Stelle, cioè così, proprio casa trasparente, facciamo vedere a tutti la riunione in diretta. Una battuta l'altro giorno, proprio a qualche collega di CDA, dicendo, vabbè, ma tutto sommato potrebbe anche essere interessante se non si parlasse di dati sensibili aziendali, che essendo sensibili sono soltanto della RAI, insomma. Questo sì, certo. Ovviamente si potrebbe mettere in streaming magari quelli che sono i pensieri sulle linee editoriali della RAI. Da questo punto di vista, guardi, io non avrei alcun problema, però quando si parla di un'azienda e si parla di dati sensibili, di economici e di mercato, è doveroso non renderli. Questo è giusto, non si può fornirli, insomma, diciamo, altrimenti così vuol dire che la RAI non deve stare sul mercato, e allora c'è tutto canone, non c'è pubblicità, ma poi non si può pretendere di avere una fiction che faccia il 30% in prima serata e che abbia una grande qualità. Insomma, ci vuole anche la pubblicità. Va bene, intanto io la ringrazio, buona giornata, grazie. Grazie a lei, Luisa buona Todini. Giornata. Ricordiamo, membro del consiglio di amministrazione della RAI. Noi ci fermiamo 5 minuti, credo. Sì, 5 minuti dopo la pubblicità. Al meteo, ripartiamo da che cosa? O raccontiamo questo mondo dorato, questo Bengodi, questo enclave che è all'interno della Camera. La Camera dei Deputati e il Senato sono i dipendenti di Camera e Senato. È vero, sono poche persone, 1500 persone, eccetera. Ma allora, oggi sul Fatto Quotidiano c'è un rapporto di quelle che sono alcune delle indennità incredibili di cui godono i dipendenti di Camera e Senato. Sapete quanto guadagna, per esempio, il segretario generale Ugo Zampetti della Camera? Secondo alcuni, fino a 600.000 euro. Si sta cercando, con le 13 sigle sindacali, o 11, tra poco ce lo dirà la vicepresidente della Camera, che sta cercando di trattare con loro, come, insomma, dare anche un piccolo taglio, un piccolo sacrificio a quelle che sembrano delle prebende ormai fuori dai tempi e fuori dalla logica della situazione di crisi economica in cui viviamo, anche per i dipendenti della Camera. 24 mattino. Sono le 8:35 minuti. Allora, cari ascoltatori, ogni tanto i giornali, e gli ultimi in ordine di tempo sono stati Libero settimana scorsa con un'inchiesta in due puntate, e oggi il Fatto Quotidiano, raccontano di una sorta di Bengodi, un mondo un po' dorato, un posto che è la Camera dei Deputati, dove ci sono delle persone, in questo caso non i deputati, ma parliamo dei dipendenti della Camera dei Deputati, che godono di, come dire, di stipendi che sembrano un po' disallineati, diciamo così, per usare un eufemismo, rispetto a quella che è la situazione economica italiana. Anche oggi sul Fatto Quotidiano, prendendo spunto da un rapporto del Movimento 5 Stelle, si parla di indennità strane. Pensate che esiste l'indennità di immissione dati per alcuni dipendenti della Camera, oppure stipendi che arrivano come secondo il Fatto Quotidiano, secondo questo rapporto del Movimento 5 Stelle, per il segretario generale della Camera, Ugo Zampetti, assunto nel 1976, fino a 600.000 euro l'anno. Di tutto questo si cerca di, come dire, sfrondare, cercare di mettere un po' in riga le cose, lo sta facendo, immagino anche con una discreta difficoltà, ma glielo vogliamo chiedere, l'onorevole Marina Sereni, che è vicepresidente della Camera e presiede il Comitato per gli Affari del Personale della Camera, e che saluto, buongiorno onorevole, benvenuta. Del Partito Democratico. Voglio salutare anche per il giornale Paolo Bracalini, che di questi temi si è occupata molto. Paolo, buongiorno e bentrovato. Allora, onorevole Sereni, intanto chiariamo questa cosa. Quante sono esattamente le sigle sindacali per i, credo, 1500 dipendenti della Camera? Questo è il dato? Sì, sono circa 1500 dipendenti. Qui alla Camera le sigle sindacali che partecipano al tavolo del negoziato sono 11, alcune sono di categoria, quindi alcune raggruppano soltanto una determinata categoria di personale, altre invece sono miste, diciamo, sono già 11 di più categorie. Accidenti, già questo sono molte, sono diverse, diciamo, per denominazione, per caratteristiche, eccetera, sono diverse dal resto del pubblico impiego, come è diverso l'ordinamento che norma che, a cui si riferisce il loro contratto, ovviamente. Stiamo parlando di una pubblica amministrazione diversa da tutte le altre, perché Camera dei Deputati, ecco, sarebbe lo stesso al Senato, alla Corte questo Costituzionale e al Quirinale. Lei è d'accordo con la mia definizione, che trova un po' su tutti i giornali, di un po' di una sacca, di un'enclave quasi da Bengodi, che forse deve un po' mutare? Ma guardi, che debba mutare sicuro. Io ho trovato qui molte professionalità di altissimo profilo, una selezione del personale che avviene esclusivamente per concorso e con una forte, diciamo, qualità delle persone selezionate, e tuttavia le retribuzioni e l'organizzazione attorno a cui queste retribuzioni si sono costruite appartengono ad una fase diversa. Fuori di noi, fuori dalle istituzioni come la Camera, come il Senato, c'è un mondo in enorme difficoltà, in grandissima difficoltà, imprese piccole, grandi, disoccupati, laureati, precari, eccetera. Credo che sia assolutamente indispensabile, questa è l'intenzione dell'Ufficio di Presidenza e mia in quanto Presidente del CAP, di quel comitato, di mettere mano ad un'azione di riforma che questo ovviamente ha due corni, uno è il contenimento dei costi e l'altro è anche una riflessione che magari richiede un po' più di tempo sulla organizzazione del personale. Allora, non punire questo personale, questo chiedere anche a loro dei sacrifici, perché siamo dentro a una stagione di sacrifici. Tra poco, vicepresidente Sereni, so che ci sono già delle ipotesi di taglio che verranno presentate oggi all'Ufficio di Presidenza e tra poco entreremo nel dettaglio. Prima però mi faccia capire, oggi il Movimento 5 Stelle, questo rapporto che è pubblicato dal Fatto Quotidiano, dice è verosimile che il segretario generale, al di là del nome, voglio dire, ha un nome e un cognome, Ugo Zampetti, guadagni 600.000 euro l'anno? Guardi, il segretario generale, nel momento in cui inizia questa sua attività, percepisce una retribuzione iniziale annua lorda di 406.000 euro circa. Lorda, 406.000 euro. Però pare che abbia uno scatto del 5%. Come tutte le altre, questo è uno dei temi che noi stiamo affrontando, un incremento automatico biennale. La prima volta del 5%, le altre volte del 2,5%. Quindi, tenendo conto che Zampetti è dal 99 in questa carica. Non sono un genio in matematica, però escludo che si arrivi a quelle cifre. Naturalmente questo non toglie nulla al fatto che sia un'enorme professionalità, ma il dato non riguarda solo il segretario generale. Ecco, vorrei che fosse chiaro per tutti gli ascoltatori che questa dinamica di crescita delle retribuzioni vale per tutti. Certo, e quindi una progressione automatica, lo abbiamo ovviamente a diversi gradi di partenza, diversi punti di partenza per tutto il personale, perché questa dinamica retributiva vale per tutti. Ma questo sì, per esempio, e qui vorrei coinvolgere Paolo Bracalini, che a questo tema ha dedicato tanti articoli e inchieste. Bracalini, allora intanto, insomma, se la matematica non è un'opinione, Zampetti, segretario generale della Camera, guadagna sui 600.000 euro, cioè lordi, è entrato con 405.000, poi primo anno 5% e poi automaticamente 2,5 ogni anno di aumento. E poi i consiglieri che sono le figure apicali, sono importanti, sono 180 alla Camera, arrivano a guadagnare alla fine dell'anno 400.000 euro, anche qui aumenti e indennità e scatti, diciamo, automatici. Allora è il paese del Bengodi, Bracalini, quello dei dipendenti della Camera e anche del Senato, è allineato, diciamo, non all'Italia ma non so, qualche mirato arabo, nel senso che tu vedi queste curve, sono impressionanti, cioè uno entra e già partono da una base molto alta anche per fasce professionali basse, cioè il famoso barbiere della Camera entra e prende 3.000 euro, dopo due anni prende già 300 euro in più e va avanti così tutta la vita per chiudere lo stipendio a 10.000 euro al mese. Non so quanti barbieri dipendenti, diciamo, di negozi di barbiere abbiano quelle cifre. E la stessa cosa vale per tutti gli altri livelli, con questa progressione infallibile, per cui come se il paese crescesse, mentre il paese è in recessione, il loro stipendio cresce a ritmi incredibili e non si riesce mai a toccare. Io voglio vedere poi che fine farà questo buono bozza di partorita da questo comitato, perché l'effetto è un po' di quello di déjà vu, no? È già successo, ne ha già proposto mille volte, l'aveva proposto Franco Marini al Senato, è stato proposto nell'autunno dell'anno scorso ancora, la stessa identica cosa, si scontra con 13 sigle sindacali, sono 14 al Senato, 14, neanche la Fiat c'ha 14 sindacali. No, ma infatti la questione, ci ha detto 11 al tavolo la vicepresidente Serena. Ecco, 11 al tavolo, quindi è un tavolo molto lungo, quindi 14 sindacati che bloccano tutto, anche perché, voglio dire, è una corporazione molto forte, questa perché è molto importante, cioè, quelli che scrivono le leggi non sono i deputati, molti dei quali sono i consiglieri, sono loro, e quindi hanno in mano loro la macchina. E quindi sono molto forti. Tra l'altro ti chiedo questo, Paolo, è vero che esistono anche queste indennità di cui si è parlato, tipo l'indennità immissione dati, cioè persone che sono pagate un'indennità aggiuntiva allo stipendio per immettere dei dati al computer, una cosa che tutti fanno, che tutti noi facciamo, normali e comuni mortali, oppure per il recapito di corrispondenza, scrive oggi il Fatto Quotidiano, addirittura l'indennità da tappezziere, cioè un'indennità per ogni mansione. Accade anche per esempio ai dipendenti del Quirinale, di cui si parla meno, ma che hanno lo stesso trattamento, diciamo, da Bengodi. Quelli del Quirinale, se ti dico solo due, hanno l'indennità di guida, cioè se guidano l'auto hanno diritto a dei soldi in più, poi ce n'hanno una fantastica che si chiama l'indennità di servizio caccia, siccome Castel Porziano era un'antica residenza di caccia, evidentemente se un dipendente del Quirinale e tira giù un fagiano, forse gli danno dei soldi in più in busta paga, no? Rimangono queste cose incredibili. No, sorrido, però vicepresidente Sereni, al di là ci permette anche un sorriso, in realtà il tema è molto serio, ma esistono queste indennità, l'indennità di immissione dati? Allora, cominciamo a vedere che cosa pensiamo di dover modificare, così parliamo anche di queste indennità. Noi siamo partiti esattamente da questo punto, dalle indennità che sono di due tipi, ce n'è una che si definisce di funzione, quindi che attiene agli incarichi che i dipendenti hanno, viene percepita da circa 500 dipendenti su 1.500, quindi non tutti, e noi pensiamo che questa indennità, che era già stata ridotta del 10% nella passata legislatura, si possa ancora ridurre. Di quanto? Diciamo dal 70%, che è quella che ridurremo, del segretario generale, fino al 30%, che è quella dei livelli più bassi. Quindi abbiamo un orientamento che ovviamente questa sera l'ufficio di presidenza deve, nel caso, ratificare, perché è una proposta del CAP, in cui si dice intanto tagliamo lì dove la retribuzione è un fatto variabile e quindi è più discrezionale, più nelle mani dell'ufficio di presidenza. Secondo, eliminiamo alcune di queste indennità che, pur essendo contrattuali, le avete citate quella di missione, così come quella di immissione dati, eccetera, sono molto antiche nel tempo, risalgono ad una fase nella quale al computer ad immettere dati c'era una certa categoria di personale molto ristretta, mentre oggi tutti noi lavoriamo dai deputati. Ma ho capito, ma vicepresidente, ma perché è cambiato il mondo, ma lì non è cambiato nulla da questo? Perché non... Qualcosa nel tempo è cambiato, però io ho assunto questa responsabilità oggi, quindi non è carino dire quante sono state le resistenze, i tentativi. Voi avete detto ci sono stati dei tentativi e anche delle resistenze. Sì. Questo è vero. È anche vero che nella passata legislatura, assolutamente ci sono ancora, io scherzo ogni tanto e dico mi dovete dare la scorta dentro il palazzo, perché naturalmente non le 11 sigle sindacali la attendono al varco. Non sono contentissime le organizzazioni sindacali, non sono contenti ovviamente anche i dipendenti. Io penso che sia giusto non criminalizzare i dipendenti, perché stiamo parlando oltretutto di un corpo di dipendenti che è sceso da quasi 2000 a circa 1500, quindi è chiaro che con le stesse mansioni, con le stesse cose da fare, sono 500, quasi 500 di meno, ed è vero che si danno molto da fare la Camera. Ma senza dubbio, voglio dire per mettere tutto insieme, perché poi dopo, siccome abbiamo deciso di fare delle scelte, per esempio non c'è orario, no? Si chiude quando finisce la Camera, si apre, cioè c'è un orario che è assolutamente flessibile, diciamo, più ampio. Però si fermi un attimo, vicepresidente, devo dare le informazioni sul traffico, poi qui riparto, perché sa, guardi, anche se la mettiamo sul conto, cioè i dipendenti lavorano tanto, poi la gente comune sa cosa può pensare, Allora, noi vogliamo sperare, Paolo Bracalini del Giornale, vogliamo sperare e capire e augurare, insomma, che queste ipotesi di tagli, insomma, comunque di revisione degli stipendi e delle indennità dei dipendenti della Camera possa trovare in Marina Sereni, cioè una persona ottimistica, e a vincere anche le resistenze che sono abbastanza comprensibili degli 11 sindacati. Però, Paolo, ho letto anche altre cose, cioè, ci sono persone che sono distaccate al Quirinale, come Enrico Pucci e Alessandro Manunta, citati oggi dal Fatto, consiglieri con stipendio da 20.000 euro netti, cioè distaccati al Quirinale ma prendono lo stipendio della Camera, cioè ci sono delle cose ovviamente che sono poco capibili da parte del cittadino italiano, o no? Sì, cioè l'impressione è che ogni volta che si entra in questi palazzi della politica si trova un mondo parallelo, no? Cioè dove ci sono delle regole diverse da quelle della vita reale, ed è un trattamento economico che non ha nessun paragone nella vita reale. E alla Camera la cosa si spiega con un termine brutto che si chiama autodichia. Cosa vuol dire? Sì. Vuol dire che la Camera risponde solo a se stessa, cioè non ha un giudice fuori da lì. E questo in cosa si traduce? Si traduce nel fatto che i dipendenti della Camera hanno come loro giudice e controllore i parlamentari, cioè la casta, diciamo, dei politici è quella che dovrebbe controllare che non sprechino, non abbiano troppo privilegi la carta dei dipendenti. Guarda che stai attento, perché anch'io una volta dissi che era brutta autodichia, mi scrisse un professore dicendo ma lei è matto, è un principio greco, l'autodichia, no? Tutti i giorni noi parliamo di autodichia. Sì, sì, certo. Capito, loro rispondono ai parlamentari, che spesso sono, diciamo, un po' ostaggio dei consiglieri parlamentari, che sono appunto quelli che danno il servizio legislativo vero e proprio. Cioè, alla fine, è la storia di questi ultimi 10 anni, tentativi abortiti di tagliare qualcosa ai dipendenti, si arginano nella complicità fra queste due carte. Ecco, onorevole Sereni, vuole rispondere a questo, cioè non c'è, come dice Paolo Bracalini, poi in realtà controllori e controllati, insomma vi vedete poi e siete in un palazzo molto ristretto nel quale, con questa autodichia, un principio sacrosanto che nessuno vuole toccare, decidete tutto, e quindi di fatto anche questo complica le cose quando si tratta di decidere. No, io non credo che sia così, guardi, penso che ovviamente ci sono state, ci sono delle timidezze, nel passato le abbiamo toccate con mano, oggi vedo anche tanti colleghi che mi dicono ma siamo sicuri che possiamo farlo questa cosa, eccetera. Ovviamente l'autodichia è una eredità costituzionale che io considero per alcuni versi ancora attuale, ma certo si può discutere. Oggi lavoriamo in quel regime. Il regime ci dice che noi siamo un organo costituzionale, che il personale della Camera, del Senato, della Corte Costituzionale, del Quirinale vengono giudicati, diciamo, le controversie vengono giudicate all'interno. Bene. Ciò non toglie che si può chiedere dei sacrifici, perché questo non è scritto autodichia uguale fate ognuno quello che volete, si possono chiedere dei sacrifici. Noi abbiamo elencato una serie di misure, le dicevo, la riduzione dell'indennità con un risparmio che può essere di circa 2 milioni di euro, cancellare quelle, come dire, antiquate, indennità che non hanno un po' più corrispondenza e ridurre quelle di funzione. Però poi ci saranno gli 11 sindacati. Dire qualche misura concreta, altrimenti non capiscono niente quelli che ci ascoltano. Secondo, nella passata legislatura avevano bloccato temporaneamente l'adeguamento automatico al costo della vita per due annualità, 2014-2015, ma nel 2016 la Camera avrebbe dovuto restituire anche il pregresso. Sì. Noi abbiamo proporremo ai sindacati di non restituire quel pregresso, e sono circa 16 milioni di euro. Quindi su queste sono le cose concrete che proporrete. Un blocco della progressione economica nella parte terminale della carriera. Perché nella parte terminale della carriera? Perché è evidente che i più giovani, quelli che entrano, che sono entrati da poco, non arrivano a quelle cifre che lei ha detto, naturalmente. Si va man mano la carriera. Ma hanno una progressione, una dinamica della carriera eccessivamente veloce. Però, vicepresidente, poi si troverà 11 sigle sindacali, cioè io adesso non voglio, capisco la sua battuta sulla scorta. Non è che noi proviamo a fare un accordo, perché la Camera prima di tutto deve provare a fare un accordo. Io ho fatto un primo incontro con le organizzazioni sindacali in cui c'è stata, almeno a parole, una disponibilità a ragionare, perché credo che anche le persone che lavorano qui si rendano conto di quello che succede fuori di qui e credo che abbiano capito che non è più sostenibile questo livello di retribuzione. C'è un accordo, bene, se non c'è un accordo, io mi auguro che ci sia l'accordo, ma se non c'è un accordo, nessuno vieta alla fine di un percorso che sarà, diciamo, in una parte prima delle ferie e il successivo ovviamente alla ripresa di settembre, nessuno impedisce all'ufficio di presidenza, al termine di un negoziato, di fare acqua Italia anche senza i sindacati. Questo, tra l'altro, Paolo Bracalini, c'è un mistero: i sindacalisti, giustamente, i sindacati parlano sempre, vai a trovare qualcuno dei sindacati che accetta di parlare pubblicamente, devo dire solo dei consiglieri, i consiglieri, le figure apicali, quelli parlano, oggi non poteva, eccetera, ma gli altri sindacalisti non parlano, non si trovano, perché? Sì, forse perché si accorgono di difendere una categoria, diciamo, che è difficile difendere, cioè non è l'operaio di Termini Imerese, sono persone che portano a casa 8.000 euro magari per sfogliare un giornale, cioè capita, noi facciamo giornalisti, andiamo alla Camera e vediamo molti che come attività sono impegnati a leggere il Corriere dello Sport, ecco, quello lì in quel momento sta guadagnando. Io di questi ne conosco pochi, per la verità. No, io ne conosco parecchi. Ne conosco qualcuno ce n'è dappertutto, quindi ce ne sarà anche qua. No, ci sono anche grandi professionalità, non stiamo dequalificando una categoria. Dicevamo prima, sono quelli che sanno come funziona la macchina legislativa, che scrivono gli emendamenti, scrivono le leggi, per carità. Dico che c'è un inquadramento automatico e generale che non ha più senso, e i sindacati difendono la CGIL in prima linea, perché c'è la CGIL lì dentro, difendono questo status quo, e poi appunto quando uno chiede di intervenire è difficile. Comunque noi questa vicenda la seguiremo, per il momento mi devo fermare, vicepresidente Sereni, noi siamo con lei, nel senso le facciamo la scorta se vuole, quando deve incontrare le undici sigle sindacali. Vediamo, io Paolo Bracalini e chiamiamo altre un po' di persone, cerchiamo di vederla così. No, intanto la ringrazio, è stata molto gentile. Vedremo se oggi l'ufficio di presidenza deciderà di approvare queste proposte e poi si parlerà con i sindacati. Ringrazio anche Paolo Bracalini del nel giornale, insomma, che è un po' come me, un pochino più pessimista, non perché siamo pessimisti di natura, ma perché dice sembra un po' un déjà vu e chissà se ce la faremo veramente a tagliare qualcosa anche dei dipendenti della Camera. Ripeto, Ugo Zampetti, segretario generale della Camera, secondo il Fatto Quotidiano il Movimento 5 Stelle guadagna 600.000 euro lordi. A domani alle 6.30. ventiquattro mattino.